Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di moda, un fenomeno che fa ormai parte dell'immagine che nel mondo si ha dell'Italia. Ma come abbiamo costruito questa immagine, questo ruolo italiano nel mondo della moda e quali sono le caratteristiche del sistema della moda italiano? Quali sono soprattutto le sfide che questo sistema dovrà affrontare in futuro? Rispondo a queste domande Emanuela Scarpellini, che è esperta di storia dei consumi e della cultura materiale, e ha scritto La stoffa dell'Italia. Storia e cultura della moda dal 1945 a oggi. È pubblicato dalla Terza, 250 pagine, 20 euro. L'autrice affronta nel libro il nesso profondo tra cultura e abbigliamento, un nesso che spiega come la moda italiana abbia caratteristiche peculiari che rappresentano appunto particolari tradizioni del nostro sistema anche economico. E proprio questo spiega il successo che alcuni decenni fa nessuno si sarebbe aspettato dell'industria tessile e dell'abbigliamento italiani. Dopo una rapida analisi sui significati culturali del vestire, passiamo in rassegna nel libro le varie fasi dello sviluppo della moda italiana, scandito in tre periodi che sono la moda della Nuova Italia fra il 1945 e il 65, la moda rivoluzionaria tra il 65 e il 75 e la fase della democratizzazione del lusso tra il 1975 e il 95, tre fasi che sfociano nelle sfide che dobbiamo affrontare oggi. E su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera Emanuela Scarpellini. Buonasera a voi. Emanuela Scarpellini, nel suo libro lei sottolinea come il successo della moda italiana sia stato il frutto da un lato della ripresa economica che ci fu dopo la Seconda Guerra Mondiale, del rifiorire dell'attività economica e imprenditoriale, ma anche della tradizione artigianale che noi ci portavamo dietro. Assolutamente, una cosa devo dire che mi ha colpito nei miei studi è che noi in realtà già 100 anni fa eravamo un po' fra i leader dell'industria almeno tessile, e delle stoffe italiane si vestivano tutte le persone, diciamo, per bene d'Europa. La capacità è stata quella di continuare questa conoscenza riguardo ai tessuti e riguardo alle capacità artigianali. E arrivato il momento dello sviluppo degli anni 60-70, coniugarlo con l'industria. Un po' quello che ha fatto il design, proponendo quindi una qualità e un sapere quasi di tipo artigianale, però prodotto dall'industria e quindi con costi molto più bassi. E nello sviluppo, nel successo della moda italiana ci sono state due tappe importanti che lei ricorda: la sfilata Palazzo Pitti nel 1951 e poi quella di Milano nel 1971 al Circolo alla Società del Giardino. Che cosa rappresentarono questi due appuntamenti? Perché segnarono il destino della moda italiana? Il 1951 Firenze è stato proprio la faccia internazionale della moda italiana, che non a caso invitava tutti i principali compratori e i giornalisti americani, facendo vedere le capacità della produzione italiana sullo sfondo dei bellissimi palazzi rinascimentali. Quasi 20 anni dopo circa succede invece che a Milano sfila quello che potremmo chiamare il primo designer, che era Walter Albini, che quindi continua questa tradizione, però non propone più abiti speciali per poche persone, ma propone quella che oggi noi conosciamo come la moda pronta. E quindi inizia una nuova era, non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa. In questa nuova era la vera svolta è rappresentata, o la rivoluzione possiamo dire, è rappresentata dal fatto che si mette al centro il consumatore, come lei scrive. Lei parla di democratizzazione del lusso, quindi questo ha significato anche un seguire, una capacità di seguire e di prevedere per certi versi le trasformazioni sociali più profonde dell'Italia e di tutto il mondo. Io di questo sono molto convinta, perché la domanda da cui sono partita è come ha fatto l'Italia, che pur aveva questa grande tradizione, a diventare un leader mondiale in questo settore così pieno di concorrenza importante, cominciando da Parigi e Londra. E la mia risposta è stata che questi stilisti, queste industrie, questi artigiani sono stati più capaci di cogliere queste trasformazioni profonde, e io penso soprattutto alle grandi trasformazioni culturali che ci sono state soprattutto negli anni 60 e 70, quando la alta moda, la moda della signora o del signore elegantissimi, hanno cominciato a perdere di significato culturale, perché la gente doveva comunque lavorare, aveva degli impegni, le donne entravano nel mondo del lavoro e avevano bisogno di bel vestito perché il business suit, il vestito da lavoro, era solo maschile, per esempio. E allora, per esempio, gli stilisti italiani inventano un abito elegante ma adatto per il lavoro. E ugualmente l'altro elemento importante, a mio parere, è che hanno colto la volontà anche di innovazione che veniva dai giovani. E quindi l'abbigliamento sportivo, l'abbigliamento casual, che prima era proibito nel vestire elegante. Quindi loro hanno capito come cambiava la società. Ecco, infatti lei insiste sul fatto che c'è stato un profondo legame tra questa trasformazione, questa capacità della moda di mettersi al passo con le trasformazioni sociali e anche con le rappresentazioni che di questa società si dava nella letteratura, nel cinema, nella televisione. Certamente, poi la moda, adesso noi parliamo di moda, ma diciamo che il vestire è comunque il primo elemento che noi tutti vediamo in una persona ed è quindi presente nel nostro giudizio immediato, è molto rappresentato nel cinema, nella letteratura. Sto pensando anche come sia importante per noi per farci subito una prima idea della persona, perché in fondo attraverso il tipo di vestire noi subito identifichiamo intanto il genere maschile e femminile, anche se poi la tendenza è ad avvicinare spesso questi due elementi, ma anche i suoi gusti, a volte sulle magliette o le felpe ci sono anche scritti i gruppi musicali o le cose preferite. Poi per esempio c'è anche un'altra differenza per l'età. Noi individuiamo e riteniamo che i vestiti segnino e siano un po' dei marcatori per la diversa età. Nel libro lei spiega e analizza la crescita, l'importanza del ruolo di Milano come capitale della moda. Come ha fatto Milano a guadagnarsi questo titolo, anche sbaragliando delle città che avevano grandi tradizioni da questo punto di vista, per esempio Roma? Nessuno l'avrebbe mai scommesso questa cosa, non l'avrebbe detta nessuno, perché, come diceva lei, Roma era partita come con la Hollywood sul Tevere, come la moda delle star anche americane del cinema. Poi era venuta Firenze, che aveva questa grandissima tradizione artigianale nel vestire e anche negli accessori. Milano arriva perché ha una migliore organizzazione, perché è vicina alle industrie che producono la moda, e abbiamo detto ormai sono industrie non più artigiani, ed è anche la capitale del mondo dell'informazione. La moda e l'abbigliamento scopre che non basta produrre un capo bello, interessante, anche a un buon prezzo. Bisogna anche venderlo nel modo giusto, presentarlo nel modo giusto. E allora la capitale dell'industria editoriale, con tutti i giornali, quelli per l'elite, da Vogue e così via, fino a quei femminili e altri più diffusi, saranno in fondo una parte di questa macchina importante, unitamente alle fiere, che farà di Milano davvero il centro e una capitale mondiale della moda. E l'industria della moda e del tessile sarà segnata da quegli anni in poi soprattutto dal peso degli stilisti. Che cosa hanno rappresentato gli stilisti per il successo della moda italiana? Gli stilisti sono intanto degli imprenditori che hanno avuto una visione e hanno capito che la moda per una ristretta elite ricchissima era finita. Bisognava aprire il discorso della moda, cioè diciamo un'attenzione al vestire anche a nuovi settori sociali. Abbiamo parlato prima, non so, delle donne che vanno al lavoro, ma parliamo anche dei giovani che, entrando nel mondo del lavoro, però magari rifiutavano di avere quegli abiti paludati che avevano i loro genitori. Quindi questa società che cambia aveva bisogno anche di un'immagine esteriore, potremmo usare la parola look per rimanere nel tema, adatto al nuovo messaggio culturale di innovazione che portava. E gli stilisti questo hanno saputo fare. Quindi quando pensiamo, per fare il classico esempio di Armani, che propone un vestito manageriale per la donna, oppure anche una giacca, dei vestiti più semplici e informali per l'uomo, è il modo di rispondere a questi nuovi bisogni. E quali sono oggi i punti di forza e le sfide che il sistema moda deve cogliere nel mondo sempre più globalizzato? Lei ne parla lungo nel suo libro. Certo, naturalmente parlando di globalizzazione ormai abbiamo capito che ci sono i pro e i contro. Però ecco, mi piace magari sottolineare anche un po' il pro, perché l'Italia è comunque un paese che non solo oggi ha il fatturato più alto come tessile, abbigliamento e calzaturiero di tutta Europa, anzi addirittura praticamente ha una produzione che pare a quella di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito messe insieme. Per molti versi è la seconda esportatrice a livello mondiale, cioè la Cina praticamente c'è davanti. Quindi è messa molto bene, però naturalmente deve rispondere a... Quindi la globalizzazione non ha fatto così male alla moda, anche se poi conosciamo i fenomeni di outsourcing e ridimensionamenti che ci sono stati. Le grandi sfide, a mio parere, saranno anche quelle di puntare sui settori tecnologici, per esempio sui nuovi tessuti, su quelli, i cosiddetti tessuti tecnici, che per esempio riparano dai raggi del sole, sono antinfortunistici. Addirittura c'è la tendenza a guardare a possibili tessuti medicali che rilasciano, per esempio, sostanze, creme, indossandoli. Grazie Emanuela Scarpellini, autrice della Stoffa dell'Italia. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. La moda significa anche modelle e modelli, ossia la ricerca del successo nel mondo scintillante delle sfilate e da lì chissà che altro. Di questo parla Flavia Piccinni, che ha scritto Bellissime Baby Miss, giovani modelli aspiranti lolite, pubblicato da Fandango, 204 pagine, 16 euro. Come avete colto dal titolo e dal sottotitolo, si parla qui di uno spaccato particolare del mondo degli aspiranti modelli che l'autrice decide di studiare dopo aver assistito a un concorso di bellezza in provincia. E in questa occasione l'autrice scopre un mondo fatto di piastre per capelli, la cito, di piccoli tacchi, vestiti luminosi, rossetti, un mondo dove la bellezza si configurava come il primo e il più importante surrogato per la popolarità. Questo mondo l'autrice ha approfondito in un lungo reportage per tutta l'Italia, che non può mancare di partire da un riferimento al film di Luchino Visconti, bellissima, quello con Anna Magnani, che fa di tutto per trasformare la figlia in un'attrice. È un viaggio istruttivo questo di Piccinni, perché ci fa incontrare anche i genitori, che spesso diventano degli autentici manager dei figli, che mettono le foto dei loro bambini sui social, che li spingono, e poi incontriamo naturalmente nel libro molti bambini, come Elisa, 6 anni, per la quale, cito la sua frase, i bambini brutti sono tristi. Cambiamo argomento e passiamo dalla moda alla scienza, e partendo da un caso che ha fatto molto discutere, un caso che per la verità riguarda più la giustizia che non la scienza, ma come protagonista una scienziata italiana, Ilaria Capua, che è un'illustre virologa, nota e stimata a livello internazionale, che nel 2013 decide anche di candidarsi ed è eletta in Parlamento, e che poi incapperà in una drammatica vicenda di mala giustizia che è raccontata nel libro Io, trafficante di virus, una storia di scienza e di amara giustizia, pubblicata da Rizzoli, 238 pagine, 18,50 euro. Il titolo fa riferimento all'inchiesta giudiziaria che riguardò Ilaria Capua per reati gravissimi, addirittura il traffico di virus e di vaccini, naturalmente cavalcato e ingigantito dalla stampa, in particolare dal settimanale L'Espresso. Un caso che dopo diversi anni si è risolto solo un anno fa con il pieno rigetto di tutte le accuse. Naturalmente è stata una prova durissima che ha indotto addirittura la Capua ad abbandonare la Camera dei Deputati e a trasferirsi negli Stati Uniti, dove oggi dirige un centro di eccellenza scientifico. Una vicenda tutta italiana, insomma, che parte dall'indagine sull'aviaria che la Capua, questa era l'accusa, avrebbe contribuito a far diffondere. E quando il PM gliene parla la prima volta, scrive la scienziata, la domanda le arriva quasi come una padellata in testa. Un conforto in tutta la vicenda viene dalle cronache che della stessa vicenda fece Paolo Mieli, e sentiamo da questo libro un passaggio del discorso di addio che Ilaria Capua tenne alla Camera dei Deputati all'atto delle sue dimissioni il 28 settembre del 2016. La sentenza è passata in giudicato e nessuno l'ha impugnata. Nessuno. Ora che è finita potrei tornare indietro, ma vi dico la verità, non me la sento. Devo recuperare forze, lucidità e serenità. Devo lenire la sofferenza che è stata provocata a mia figlia e a mio marito. Devo recuperare soprattutto fiducia in me stessa, appunto perché voglio usare al meglio il tempo che ho a disposizione. Lo devo ai miei genitori che mi hanno fatto studiare, ai miei maestri, ai miei amici e ai miei allievi di ieri e di domani. Paradossalmente, penso che se questo mio passaggio di vita, come rappresentante del popolo italiano, lascerà un segno, esso non riguarderà la scienza o la ricerca, riguarderà la giustizia. Quello che è successo a me accade troppo spesso in Italia e potrebbe succedere a chiunque. In occasione di questo momento voglio dar voce a tutte le persone innocenti accusate ingiustamente, che attendono impotenti che la giustizia faccia il suo corso, perché anche loro meritano rispetto. Un'altra scienziata di fama internazionale, questa premio Nobel per la medicina, è l'australiana di origine ma americana di adozione Elizabeth Blackburn, che con Elissa Hipple ha scritto un libro nel quale illustra le virtù della scoperta che ella ha fatto, i telomeri, una porzione del DNA decisiva sui processi di invecchiamento. Questo libro si intitola La scienza che allunga la vita, la rivoluzione dei telomeri, per l'appunto è pubblicato da Mondadori, 402 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Laura Serra. Le autrici, non spaventatevi per la parola, le autrici, dicevo, si rivolgono al lettore comune per farci raggiungere l'obiettivo, come scrivono, di vivere meglio in maniera più piena sia ora sia negli anni della vecchiaia. E questo è possibile proprio grazie a questi telomeri, il cui studio e le scoperte relative ai quali possono permettere di ridurre, scrivono, le malattie croniche e incrementare il benessere a livello sia di cellula sia di vita personale. Questo libro, insomma, rivoluziona il modo in cui dobbiamo considerare l'invecchiamento grazie alle scoperte relative al DNA, di cui i telomeri sono una piccola porzione. Per utilizzare gli esiti di queste ricerche occorrono naturalmente però degli sforzi anche da parte nostra, soprattutto lo sforzo di dominare lo stress, perché non entri lo stress nelle cellule e non le rovini, e anche lo sforzo di esercitarci non nel pensiero negativo, ma anzi in quello che le autrici chiamano resilienti, cioè un pensiero che fa parte di una nuova generazione. Scrivono di terapie basate sull'accettazione. Queste terapie non cercano di modificare i pensieri, ma aiutano a cambiare la propria relazione con essi. Non è scritto da nessuna parte che si debba credere ai propri pensieri negativi, che si debba agire in base a essi o che si debbano avere tante brutte sensazioni per via di questi pensieri. Insomma, questi miracolosi telomeri sono fortemente condizionati dallo stress, compreso quello che viene dalle difficoltà socio-economiche. Perciò leggiamo il libro per attrezzarci ad arrivare fino a 120 anni. Una lettura particolare di una branca scientifica, cioè la matematica, è quella di uno scrittore scienziato, nonché famoso giallista, Marco Malvaldi, che ha scritto Le due teste del tiranno, metodi matematici per la libertà. È pubblicato da Rizzoli, 254 pagine, 18 euro. Partendo da un noto premio scientifico americano conferito dall'Università di Harvard, che premia la ricerca scientifica che prima fa ridere per la sua apparente inutilità, ma poi fa pensare, e soprattutto dalla reazione sconclusionata di un commentatore digitale a questo premio, l'autore si interroga sull'ignoranza diffusa in campo scientifico, nel quale si procede cercando di risolvere rompicapi un po' particolari. Il tiranno che dobbiamo vincere, perciò, è quello che opprime la nostra libertà di pensiero, alla quale, scrive Malvaldi, spesso preferiamo la nostra volontà e i nostri desideri. E il libro affronta in ogni capitolo un teorema, una branca della matematica, magari sviluppata per risolvere dei problemi astrusi, apparentemente inutili per l'appunto, al quale viene applicato un metodo cognitivo che eviti l'errore basato su convinzioni a cui faccio ricorso, scrive l'autore, quando non ho a disposizione dati sufficienti per prendere una decisione oppure non ho tempo né voglia di pensare al problema. Conclusioni. Occorre vincere la protervia, scrive Malvaldi, con la quale l'ignorante sostiene le sue opinioni. Anche perché, come ha messo in luce una dotta ricerca scientifica che qui viene citata, più le persone erano ignoranti, più presumevano di sapere quello di cui parlavano e più convinte e assolute erano le loro risposte. L'ignorante a tutto tondo, conclude l'autore, avendo una scarsissima superficie di separazione tra quello che sa e quello che non sa, non solo è convinto di sapere ogni cosa, ma si crede molto più capace di quelli che invece ne sanno davvero. Il libro di Malvaldi si conclude con la citazione di uno dei grandi fisici del Novecento, Richard Feynman, qui presentato come un modello per la modestia con la quale rispose a un matto che gli esponeva una rivoluzionaria teoria scientifica. E del fisico americano che ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 1965 e poi morì nel 1983, Adelphi pubblica Le battute memorabili di Feynman, che sono curate dalla figlia Michelle. E 410 pagine, 26 euro, il libro è tradotto da Franco Ligabue. Feynman, oltre che un grande scienziato, fu un grande divulgatore, e lo conferma appunto l'episodio raccontato da Malvaldi. E qui nel libro abbiamo una testimonianza del suo metodo, con moltissime citazioni tratte da varie fonti e raccolte in capitoli sulla vita della scienza e molti aspetti che magari con la scienza hanno apparentemente meno a che fare, per esempio la politica, la guerra, la musica, per la quale Feynman aveva una grande passione, come ricorda qui il violoncellista Yo-Yo Ma. Ma sentiamo dal libro un paio di riflessioni su Feynman, per esempio questa sulla natura della scienza. La gente vuole delle risposte e chi è in grado di dargliene è meglio ai suoi occhi di chi non gliene dà, mentre nella maggior parte dei casi è proprio vero il contrario. E così i politici in campagna elettorale ostentano certezze e si spingono a fare promesse che, è matematico, non possono mantenere. Così alla fine nessuno ci crede più. Ed ecco allora il rifiuto della politica e una generale mancanza di rispetto per chi magari i problemi cerca di risolverli davvero. E poi quest'altra sulla politica di sconcertante attualità, anche se fu scritta nel 1963. Se non ammettessimo il dubbio, non vi sarebbe progresso. Non c'è apprendimento senza domande, e queste presuppongono il dubbio. La gente chiede certezza, ma questa non esiste. Come faccio a vivere senza sapere? Non è così difficile, perché in realtà si crede di sapere. La maggior parte delle nostre azioni si basa su conoscenze incomplete. Non sappiamo come funziona la faccenda, quale sia lo scopo del mondo, e anche sul resto non sappiamo granché. Sì, è possibile vivere e non sapere. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberta Frisani, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.